se oggi noi andiamo ad un taglio sostanzialmente di tutte le competenze e di tutti i trasferimenti relativi a quella che viene chiamato la Bassanini, no? Le competenze trasferite alle regioni, ad un taglio appunto di circa 5 miliardi di euro quest'anno e 5 miliardi di euro quest'altro anno, io non riesco a capire la parte che non è, diciamo, coperta al 100%, come viene distribuita? Non c'è più. A quel punto il federalismo che cos'è? Il federalismo fiscale? Pongo un problema, credo, vero, serio, perché una cosa è la propaganda, una cosa è la sostanza. Che cosa rimane? Quali sono le politiche di ridistribuzione rispetto appunto alla responsabilità dei territori e all'autogoverno? Questo è il punto. Io faccio presente che il comparto delle regioni a statuto ordinario, senza la sanità, complessivamente vale 19,7 miliardi di euro. So se mi spiego. Sì, certamente. No, se ne tagliamo 5, più 5, dove andiamo a finire?